con il tempo, lì se con il tempo, lì se con il tempo, lì se con il tempo, su sale so spammento ya ho, lì se con il tempo, su sale io dambe male ni wa con il tempo. Isiluleko zababa sisizilutho lise khona ithemba utshwala namanyala kusebenzi lise khona ithemba baba lise khona ithemba lise khona ithemba baba lise khona ithemba lise khona ithemba Whoa, whoa, whoa, whoa.